E domani il sole brillerà di nuovo sul cammino che percorrerò. Ci vedrà nuovamente uniti, felici, in questa terra che respira il sole. E scenderemo silenziosi e lenti verso la vasta spiaggia, le onde azzurre. Ci guarderemo senza parlare, negli occhi, e calerà su noi muta, inesprimibile felicità.